Sì, noi abbiamo scelto ovviamente di contestare. Qua a Milano la polemica è venuta ovviamente sulla legittimità o meno di un'iniziativa del genere, perché è stata presentata come iniziativa culturale. Noi non la riteniamo legittima perché non riteniamo lo Stato di Israele uno Stato normale, proprio per le politiche che attua e per la colonizzazione e espropriazione dei palestinesi, e quindi abbiamo deciso di contestare la legittimità di una iniziativa del genere. Quindi non è un problema se la facessero in Duomo o meno, ma il fatto, certo, che ci fosse e che fosse appoggiato dalle istituzioni. Abbiamo quindi fatto iniziative di controinformazione, lettere alle istituzioni, incontri con gli enti locali, ovviamente, che avevano il senso solo della protesta. E l'iniziativa più importante per il momento è stata sabato scorso, con un presidio in Piazza Duomo, malgrado il divieto della questura, con qualche centinaio di persone, che ha sfilato con quello che abbiamo chiamato il memoriale dei bambini uccisi a Gaza, quindi i nomi, i vestitini, le scarpe dei bambini, con i nomi dei bambini uccisi durante l'operazione Piombo Fuso. In questi giorni è proseguita con alcuni blitz comunicativi. L'altro giorno abbiamo fatto la scritta Palestina Libera con i corpi, alcuni di noi, con ognuno una lettera. Ieri abbiamo continuato con proteste dentro il forum e fuori dal forum, ma ovviamente l'appuntamento più importante sarà sabato prossimo con il corteo nazionale, che partirà alle 15 da Largo Cairoli. La locandina che avete diffuso è secondo me molto bella, si vede il Duomo, insomma, con questo, col muro, con la bandiera israeliana e poi i carri armati che passeggiano, appunto. Sì, anch'io trovo che sia molto riuscito. Praticamente è un splendido fotomontaggio tra l'ingresso a Betlemme, credo. Sì, e penso che sia l'ingresso delle Duomo, macchine. Perché noi abbiamo voluto definire quella di Milano, credo anche qui con una scelta felice, l'occupazione israeliana di Milano. E tra l'altro, purtroppo, la nostra era una sorta di iperbole, anche un po' provocatoria, ma il fatto che il giorno che addirittura stessero montando gli stand non si potesse manifestare in Piazza Duomo dava l'idea che forse era il diritto di Tel Aviv a essere applicato anche a Milano, quindi forse non avevamo poi sbagliato di molto sull'occupazione. Speriamo sia temporanea e non permanente questa occupazione israeliana, insomma. Senti, la partecipazione invece alla kermesse, secondo voi, insomma, come sta andando? Ma sai, è una roba strana, nel senso che ieri al forum economico e all'incontro su Israele nel contesto regionale era sicuramente partecipato, ma era molto di area di interesse sia di businessmen e di enti istituzionali, aziende, per quanto riguarda il forum economico, e dell'incontro, diciamo, più di tipo politico-culturale. Era un'area soprattutto legata sia alla comunità ebraica sia un'area di interesse culturale più generico, ma quello era abbastanza scontato. All'installazione di Piazza Duomo passa qualche decina di persone ogni ora, ma è un'installazione che anche dal punto di vista comunicativo è discutibile, perché è vero che ci sono i totem multimediali, ma ci sono anche molte parti scritte, e si trova sotto il sole di Piazza Duomo, aperta dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Io credo che qualche migliaio di persone entra, ma è una roba oltretutto ipertransennata, blindata. Ieri sera, ieri notte, un amico mi ha telefonato, mi ha detto che stava vedendo 15 blindati, non invoglia proprio a entrarci in un posto del genere. Per cui è chiaro che è simbolico, non ha nessun significato in più. La gente che passa mi sembra abbastanza indifferente sia da una parte che dall'altra, non mi sembra che abbia particolarmente coinvolto la città di Milano. Ha coinvolto gli amici di Israele in tutte le istituzioni e in tutti i giornali che l'hanno utilizzato per fare la propria campagna. Senti, una domanda, insomma, così, che dopo questo cambio di sindaco, dopo quanto è successo per l'elezione del sindaco a Milano? È cambiato qualcosa nell'aria a Milano o anche rispetto a questo, visto che, insomma, essendo una cosa molto istituzionale? Ma guarda, onestamente non mi sembra che sulla questione palestinese si senta un'area particolarmente nuova, cioè non mi sembra che il cosiddetto popolo arancione abbia colto l'importanza delle iniziative contro la kermesse. Paradossalmente potrebbe avvenire il contrario. Siccome la destra milanese e i giornali della destra milanese hanno utilizzato la kermesse per attaccare preventivamente Pisapia, dicendogli adesso tu devi far vedere al tuo popolo che sei fermamente a favore della kermesse, e tutto sommato Pisapia l'ha fatto, facendo anche dichiarazioni discutibili nella presentazione alla conferenza stampa, di fatto rischia di esserci un effetto opposto, e qualcuno comincia a dire però non dobbiamo alzare il tiro perché non dobbiamo scoprire Pisapia, eccetera. Allora, dal nostro punto di vista è molto chiaro, chi ha appoggiato o chi non ha appoggiato Pisapia è poco importante. Noi siamo un'organizzazione, questo comitato indipendente, autonoma, se dobbiamo dire le cose le diciamo, sia che diano fastidio, sia che diano fastidio a Pisapia, a Formigoni e a Podestà. Questo non ci sono dubbi, le abbiamo dette, naturalmente sappiamo bene che Podestà e Pisapia non sono la stessa cosa, anche rispetto alla questione dei diritti dei palestinesi. Secondo me il sindaco Pisapia ha completamente sbagliato, ritenendo questa un'operazione di conoscenza, come ha detto nella presentazione, e non un'operazione di propaganda, che ovviamente sono due cose diverse. Va bene, anche perché avvengono nel momento in cui lo stesso, insomma, Netanyahu si trovava a Roma, questa coincidenza è abbastanza... Tra l'altro avrebbe dovuto inaugurare anche a Milano, poi forse hanno preferito evitare, anche perché dovevano inaugurarla Berlusconi e Netanyahu. In questo momento. Che ci sarebbe stata la contestazione più a Berlusconi che a Netanyahu. Infatti, senti, va bene, noi ti ringraziamo, ricordando l'appuntamento, c'è, cioè, questo corteo nazionale, sabato prossimo, sì. Sabato 18 giugno, a partire dalle 15 a Piazza Cairoli. Che sì. Giro farà, insomma, che il corteo dove si sposterà? Se lo faranno spostare nei dintorni, cioè dovrebbe attraversare il centro, ovviamente senza passare da Piazza Duomo, perché ovviamente questa volta non saranno così gentili da ignorare le prescrizioni di loro stessi, quindi farà un giro lungo il centro, Piazza Scala, San Babila, e chiuderà sempre comunque nel centro di Milano, non vicinissimo a Piazza Duomo, ma in maniera tale da essere comunque acusticamente vicini e soprattutto di poter continuare a parlare con la gente di Milano, ma poi comunque lo faremo anche nei giorni successivi al corteo. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, ci andremo casomai a sentire sabato per capire questo corteo come andrà. Ti ringrazio e grazie a voi e buona serata. Anche a te, ciao.